questo sono io, semplice come mi vedi, spesso ordinario a volte fuori dagli schemi. Senza freni, troppo sincero, la luce che ti abbaglia o intorno tutto nero. Il tuo migliore amico, quello che ha tradito, e ad un saluto oggi alterno il terzo dito. Ups, che cosa dico? Ora devo andare, c'è un conto da pagare per le ruote da cambiare. Cara, come mi prendi? Se mi conosci, sai anche come mi stendi. E se ti offendi, prima o dopo ti riprendi. E su quaderni che scrivo i mali più tremendi. Quello che non sai, che non racconto mai, quando lo scoprirai sarà perché mi capirai. Fino a quel giorno tutto resterà nascosto, intanto aumenta il numero di chi tenta di prendere il mio posto. Sono dove sono e nessuno mi assomiglia, sei dove sei, indietro di mille miglia. Sono come sono, spesso un poco di buono, sei come sei e senti adesso come suono. Sono dove sono e nessuno mi assomiglia, sei dove sei, indietro di mille miglia. Sono come sono, spesso un poco di buono, sei come sei e senti adesso come suono. Io sono come mi vedi baby, sono un pezzo di me, merda dalla testa ai piedi, e più credi di conoscermi più sei lontana dal vero, davvero. Come le tipe su FB, dal vivo faccio schifo. Sono astemio, per curarmi bevo. Sono al capolinea, guida poi mi diedo. Quei pensieri tutti belli in fila indiano ordinati, come moicani, fino al prossimo mojito, alla moina di una bella figa. Facciamo il circo come Moira, ti suono come gli hologram. Faccio magie senza pomito con e manici di scopa. Ma un po' motadame, un manico che scopa. Ho le cime nel domo, pac, sotto effetto stono come in sottotono. E vivo il suono come fosse l'ultimo giorno che vivo. Non si sa mai che sia l'ultima rima che scrivo. Sono dove sono e nessuno mi assomiglia, sei dove sei, indietro di mille miglia. Sono come sono, spesso un poco di buono, sei come sei e senti adesso come suono. Sono dove sono e nessuno mi assomiglia, sei dove sei, indietro di mille miglia. Sono come sono, spesso un poco di buono, sei come sei e senti adesso come suono. Sono come sono e resto vero per ora, sei come sei e ti sopporto ancora. Sono dove sono perché procedo per ora, sei dove sei perché mi aspetti ancora, pronto per il prossimo colpo che sferra. Sto con i piedi inchiodati per terra, arrivo come un lampo prima del tuono. E con le cuffie nelle orecchie senti adesso come suono. Sono dove sono e nessuno mi assomiglia, sei dove sei, indietro di mille miglia. Sono come sono, spesso un poco di buono, sei come sei e senti adesso come suono. Sono dove sono e nessuno mi assomiglia, sei dove sei, indietro di mille miglia. Sono come sono, spesso un poco di buono, sei come sei e senti adesso come suono. Sono dove sono e nessuno mi assomiglia, sei dove sei, indietro di mille miglia. Sono come sono, spesso un poco di buono, sei come sei e senti adesso come suono.